sei più buffo. Graziano, Graziano, ci sei? Di mattina. Attento, gufo. Ciao, Mari. E sta paga? E che facendo c'è? Sto caldo da solo. È vero. Io ieri me lo sono portato a casa, c'avevo il problema al PTT, che no, schiacciare non scappava. Ed era spostato il gommino dall'interno. Prova a ferra, non ho capito l'uno. Ho detto che ieri me lo sono portato a casa il portatilino, no? Che c'era il PTT, a seconda come lo tenevi, scappava, mi staccava la portante. Mi. Oh, è strano, come mai? C'era il gommino un po' spostato, Gio Maria. Ah, sei a posto, dai. Ah, e cosa aveva? Non ci si è accorto? Si è spostato adesso, perché ce ne vuole uno fisso. Uno fisso ce ne vuole lui. Ah, di microfono, dici? Oh, è apparecchietto, invece avere il portatile. Avere uno fisso, la macchina. Se lo mette a parte come il baracchino, non lo tocchi più. No, non mi interessa, Gio Mari. Già, va giù liscio, no. Va bene questo e avanza pure, guarda. Vabbè. Sai, come va anche il portatile. Però con quell'altro almeno non stai con lui in mano, capito? Ecco, tutto lì. Magari portatelo, è comodo perché l'ho riportato dove voi. Aspetta che mando un messaggio allo chef. Vabbè, è la cosa, non hai sentito, Graziano. Beh, gli ho mandato un messaggio adesso su WhatsApp. Oh. È Luca, il bello. Ah, Luca l'ho sentito stamattina. Diciamo, vabbè, ho mandato un messaggio su WhatsApp. Oh, se la sta combinando, Sta sino il telefono è giù, ragazzi, ma è un po' bello il telefono, grazie. È duro, è a due di allontanata il telefono. Uia. Che ne sa due strisce pedonali. Per carità, grazie. Allora non sto lavorando allora. Oh, stiamo aspettando che ci diano l'ok, dobbiamo andare a fare un altro lavoretto. Ah, ecco. Speriamo che si scendi anche se allora. Speriamo. L'abbiamo già fatto. Però se vuole fare una cosa fatta bene, Gio Maria, bisogna smontarne un bel pezzo di tetto e fare il lavoro come Dio comanda. Capito? Secondo cosa c'è da fare sul tetto? Bisogna anche aspettare anche il tempo buono per il tetto, perché sai com'è? A momenti di fare l'aria, a momenti non fa di niente, capito? Anche quello. Quello mica lo puoi fare d'estate, ti ammazza lì, ti ammazza proprio. Ti ammazza. Che hanno bisogno 35 gradi di tempo che ti ammazza. Bisogna farlo una giornata che non sia molto calda né molto fredda, capito? Primavera, dai. Perché cosa magari da fare in primavera, questi lavori sono periodo di fare in primavera, ma insomma si può stare anche quando c'è il sole. Lo so. Vabbè. Adesso vediamo, ci daranno l'ok per farlo. Aspettiamo allora. Bene, Mela. Com'è la radio? Buona? Perfetta. Ok, vediamo un po' se c'è Tore, chi ce la sei bicicletta correndo? Perché la bici ci ha comprato. È già credito l'incendio, non sarà con l'influenza, no? C'è con l'influenza, mandiamo a Graziano, Graziano c'ha le supposte. Graziano si sente sempre bene lui. Lui si tiene bene, sempre in caldo, tranquillo, mangia tutto quello che vuole, soldi ce li ha, e per cui stia tranquillo, dai. A me manco chi stanno mi è toccata la pensione. Sono passato due maltesi, stanno mi tocca. Graziato dice che la pigliata è stata già intesa. Chi cazzo? Si ha fatto poco impresa in fin di sera. E ora si è comparato. Evidentemente ha comprato cosa vuole, vado a dare a preparare, capito? Mi si è detto, magari non credo, non penso, sai già il peso tutta la borsa, stava ne sono rimasti anche poco. Grazie, e c'è il computer, va, puoi farmi vedere il telefonino. No, là non c'è perché c'ero io. Non c'è. Però qua è entrato Giulio, l'ho sentito. Visto che ero computer, Gio Maria, se chiede di farmi nudi. Mio, pure, beh, attesi. È vero, un bidì, è un paio d'ore già. Però penso che il suo padre per chiamare gli allucci l'ha gestulato. Ma usci a Baizelli, cazzo. Ma a vedere cosa poteva il bidì a farlo andare, capito? E a me me ne è passata la gana. All'inizio c'era bello, Gio Maria, la verità. Il primo computer era lì, stati ore e ore malavine attaccato. Sempre attaccato, non è chattando. Adesso me ne è passata tutta la fantasia, va. È come il baracchino lo stesso, sì, entri, però non è più come prima. Te ne passa la voglia. A me il computer già non mi manca, no, guarda. Mi sa che c'è un problema. Ma che a me mano. Ogni tanto la sera già lo accendo anch'io, ma non è che ci vado a pazzo, capito? Perché molte cose non li so fare anche, capito? Anche quello è. Magari come guardare e cose, cercare già le so fare, ma molte cose non ci riesco, allora. Però mi fanno male gli occhi, capito? Quando so magari un'oretta così comincia a lacrimarmi gli occhi e allora devo spengere, se no mi fa male di testa, capito? E invece magari al baracchino, anche se non parlo, anche se acceso, magari ascolto e mi sembra, sto più bene là. Anche a me fa. Mi fa così, è lacrimare. Vabbè. Già lo uso comunque il computer, non lo uso, faccio ordini, tipo ne ho fatto uno un paio di giorni fa, una marina, ordinato una cosa, per il fisio, poi ho ordinato un pezzo per un telefono, è comodo per quello, il telefono devo mettere tutti i dati, Gio Maria, un casino, e poi col telefono non mi fido, non si sa mai, anche se nella carta non tengo niente, mica... Già mi hanno fregato 140 euro qualche anno fa da Postpay. Il telefonino anche io, non è che usi molto, non è che li usi molto io il telefonino, capito? A telefonare sì, però magari a cercare. Beh, lo sai che c'ho internet e pure non sono mai entrato in internet a cercare qualche cosa. Non mi sono messo mai a chiedere dove riesco, forse perché non me l'hanno fatto vedere, me l'hanno fatto vedere, però no, dopo due giorni non mi ricordavo più e non mi sono convinto, per dirci no. Mentre invece al conflitto ormai gioco a memoria, capito? Gio Maria, come si dice? Praticamente, ma tu hai sempre quel telefono vecchio, cioè quello che hai fatto vedere a me, quello hai. Non è vecchio, no. Ce l'ho appena 2 anni, mi sembra, no? O 3 anni. 3 anni. Ne avevo uno, me l'avevo regalato l'anno scorso. Però non riuscivo a capire niente, ecco. Infatti non bene, ce l'abbiamo nuova. Quello era nuovo il telefonino stesso. Ma funziona bene questo che ho io, Non è che non funziona, funziona benissimo. È solo che uso La maggior parte usa solo per telefonare, basta, o guardare qualche foto, eccetera, sullo scappo, eccetera, ma altre cose non riesco a fare, no? Nemmeno mandare messaggi, io non li mando perché non so come fare a mandare messaggi, capito? Oh, no, che mi interessi, No, vabbè, te ne vuol dire vecchio, diciamo... Non è vecchio perché c'hai 20 anni, e c'era un telefono, un Android, non è recente, mi. Ehi, non è vecchio, è vecchio, per cui è abbastanza recente, no. Però già funziona bene, dai. Per quello che lo uso io mi fa bene. Vede, l'internet non l'ho mai usato io, mai usato, mai. Ripeto, ho provato, me l'hanno fatto vedere, però dopo ho riprovato io, non ci sono riuscito, hanno mollato tutto. Vabbè. No, io te lo uso, a voglia. Beh, pago 20 euro ogni mese di internet, vedi un po'. 17 pago, non 20. Poi mi hanno mandato un messaggio, se voglio 50 giga, pago 20 euro. Cioè, più sta andando, prima c'avevo un giga, poi da un giga a 2, poi da 2 a 3. No, era 1 e poi 3 sono diventati, poi da 3 a 10, da 10 a 20, adesso sono sempre a 20 giga, poi se voglio pagare, se voglio 50 giga, pago 20 euro ogni mese. E Gio Maria, a me mettessi in ogni mese 100 euro, di più 120 euro ogni due mesi, tra quello di casa e il telefono. Io lo so poco, ma io prima c'avevo lavoro, perché hanno cominciato a ogni tanto aumentare, ogni tanto aumentare, oggi mi la giocavate, ma mi sono messo quello nuovo e adesso 7. 6,99. Per cui c'è tutto, per cui no. Ho messo quello, capito, e basta, ed è per sempre, capito? E non aumenta, ci dovrebbe aumentare, mi devo dire, devo capo subito. Lo so, Giovanni, lo so. A me è sempre più sta andando, più sta aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando. E così, allora, a me mi hanno anche preso per i fondelli, quello di casa, e ho detto, siccome è il nome di mia madre, no, ma gli ho detto, pago io, perché ogni volta che ho dei problemi chiamo. Mi ha detto che questi due mesi paghi a quasi 80, e poi scende a 60. A me questa bolletta, l'ultima che mi è arrivata, mi doveva arrivare a 60 euro. Ho chiamato, un altro operatore della Wind, ma lì ha capito male, ma lì ha tutto il pacchetto, ha le chiamate illimitate verso i telefonini, giga limitati, insomma, tutte queste cose. Cioè, ognuno dice la sua lì dentro. Infatti adesso io questa qua gliela pago, domani va, me la paga. Io quello di casa avevo il contratto per 3 anni e dovevo pagare, mi sembra che era 15 euro, mi sembra che dovevo pagare ogni mese, capito? Allora dopo ho cominciato, dopo 2 o 3 mesi hanno cominciato a aumentare. Ogni mese aumentava, l'ho visto così, e il mese scorso l'ho tolto, quello di casa, infatti l'ho tolto, non ne voglio più sapere, già adesso usiamo i telefonini, io e lei, per cui quello di casa, non telefonavo mai, noi non telefonavo quasi mai, cazzo, e devi pagare un buttone di là, cazzo, allora abbiamo visto così, andavamo messi a casa, sì. E prima di scadere anche il contratto ho pagato un tanto e l'ho annullato. Infatti io non ce l'ho in casa adesso telefono, perché usiamo solo il telefonino e basta. Stavo parlando io, Giovanni, forse ho perso il coso prima, vabbè. Comunque stavo dicendo, se non mi abbassano troppo pago troppo, se me la abbassano a 60 rimango, se no faccio la richiesta del codice di immigrazione e me ne passo un altro gestore. Certo, beh, è una scena, prima dice, mi rimane fisso quella cifra, invece voi comincia a mettere, ma è capito, di Marugetto, capito? È la visione, cazzo, non si chiede, riesce a fare. E al telefonino lo stesso, cazzo, la foto fa, cazzo. Quindi che era così tanto, invece ha ricominciato a aumentare, torna a aumentare, così, allora finalmente ho cambiato. Adesso invece questo è per sempre, e per cui vedo un po' cosa succede. Speriamo che lo aumenti anche questo. E dovesse aumentare, ma non penso, e ne lo distacco subito. Qua io ti posso dire che mi trovo bene, la verità, perché io anni addietro ho avuto la Fiscali, ma per carità, sono stato anche una settimana senza internet, così, andavo a chiamarli, non riuscivo a contattarli, zero, non riuscivo, poi alla fine, cosa ho fatto? Ho preso e ho cambiato, siccome era nome mio, non gli ho pagato le bollette, cioè non gli ho pagato una bolletta, poi mi hanno mandato una bolletta alta, tipo 120-130 euro, non gliel'ho pagato, E poi a nome di mia madre sono passato a Wind. Un macello, sono tutta la massa di ladri, cazzo. Cazzo, ce ne sono poche queste di telefonini, per carità. Uno peggio dell'altro, la Romagna che ti mangia, ti dirà, soffendi, cazzo. Non sai come ti fai, cazzo, tu speri di chi ci dirà, cazzo. Per carità. Ma io vi dico un po' cosa basi che tu... che va già va di casa, sono tranquillo, l'ho finato di casa, sono tranquillo, boh, cazzo, tanto non telefonavo mai, dai, sono di casa io, né io la renda, così che usiamo i telefonini e basta, boh, e siamo tranquilli, posso fare tutte le chiamate che voglio e dove voglio, il prezzo è sempre quello, per adesso è così, speriamo che non cambi. L'altro è rosso e l'altro è massiccio. Ah, intendi, ci ha fatto un regalo Graziano. Aspetta, gli mando un messaggio. Entra nell'LPD, tipo la Gio Maria, entra. Grazie, ma c'è. Quello telefonino era? Sì, a te ci ha fatto un regalo. Bello, si è preso un anello d'oro, col zaffiro sopra. Zaffiro, non ti capo, si chiama. A me non mi piace i naniti, preferisco più un bracciale. Perché Graziano? E allora, bello però è bellino, dai. Ce ne sono tre, uno ne ha però, e due ce l'hanno, uno nero e uno rosso. Zaffiro. Grazie! Oh, al telefonino, Ma se si tende un regalo, boh. Andano lui, morto l'ha pagato. Boh, non risponde. Graziano, e vabbè, oggi che piace, vado la cosa piace, e la ragione, anch'io sono così, se una cosa mi piace, mi rabbiglio, non la so cattare a lungo, certo. Come tutte le cose, certo. Per cui va bene, l'importante è che ci sia origine. Qual è la cosa più importante? Se non c'è soldi, chi sa la messa? Ci sono soldi. Forse è andata a comprarselo. Graziano. A te, dottore! Ma chi se ne è manco? Ma chi? Graziano deve essere innaffarato, ma sì. Ma deve essere un chissaggeggio, deve essere. A che se è stato entrato là, Graziano? Adesso entra Gio Mari. Sta chiedendo se è nel telefonino, devi tornare al portatile che ci sei tu. È tonto mi. ma è già acceso, se vuole entrare, la porta è aperta. Va bene. E chi dà ragione? Oh, tutto io non l'ho acceso, Tutto mandare in giro al luogo all'altro. Alle 4 qualcosa l'ho acceso. Ed è acceso, mi guardava, era il computer e l'apparecchio l'ha acceso, uno e l'altro. È come c'è Iliad, 50 giga, quello lì c'hai già Mario, Iliad, 50 giga, 7,99 euro. 6,89 euro, ma è 99, 6,99 euro. E perché tu lo fai l'internet? No, io mi ha detto, solo vuoi fare di più. Ah, ecco. Ok. Va aumentando, infatti. Sì, quell'azienda è aumentata adesso. Sì, sta entrando, dato che sta facendo cosa, se lo prende. Entra subito, come dice lui, subito. Lascialo fare, cosa fai? Le piace a te. Intanto ci ho fatto un bel regalino, Ehi, cadito di Sirappuccio! Sai chi sono i rubini? Sono lei che mi mancava, per carità. Ogni tanto attaccavo qualche cosa e tu mi fido. Vabbè, a me la vita mi danno fastidio, mi danno fastidio, mi preferisco più un bracciale, una collana. Vabbè, io vado che ci aspetta, io vado che ci ti rimpiazzi. Ma se mi senti, un disrappoccio, io lo dico di rubini, per carità, la sentra d'assa. Allora, il mignolino. Attento, gufo. Va se prende la leggo. C'è la poccia addressa, no? Non le vorrei sci. Bisogna tagliare il rosito e fa pulire il sinistro. Allora, via. Mi ho pillino, mi raccomando. A me me l'abbia fatto mamma uno. Faccio solo rogavia. Me la faccio con la perla. Cazzo, ma un bel dare fa però, bello, cazzo, un mese là. Ma diciamo farà di amarlo all'America, a coso a Mira. A Porto Corte sono farati. Era una crepe di famiglie, no? Tre o quattro famiglie. Era minaccio con la madre, ma no, a che me ne c'è una per minicia. Era già piccato un fare una roba in una maccia. Torro, ero per abivaletto. Era venuto la sera a Zacchelli, chissà cosa, che alle bici mi era abbigiato, non mi era abbittorrato. Magari gente che era conmigo, ma stessi. Ma che non era su nessuno, in giro. Tata, già mi dispiace su poco, mamma, tutto le succede che fa bello, là in sotto va a farmi la reggio. E a tutti i minuti così mi dispiace veramente. Perché è pesante era. Lo credo bene, è maduro era, poi era quello per l'altro, cazzo. C'era la perla proprio sopra, capito? Mi dispiace veramente, cazzo. Cazzo, sono stato un mese che proprio sempre messo da in Svizzera io. Purtroppo me ne hanno fuggito sul sasso. Gente che era un nego, ma te. Si ha valore loro, Sai che è a 23, a 24 euro il grammo. Questo che sempre. Me l'ha fatta apposta. Loro non interessava più, mamma è andata all'orefice e mi ha fatto fare lì, dopo più apposta, ma vabbè, capito? È un regalo che mi ha fatto e purtroppo mi ha reputito. Già mi ha distratto un poco perché era un regalo di mamma, capito? Allucinante, bubù. Vabbè, se vuoi fare Giomari, cosa ci vuoi fare? E se avete i vecchi più, attento, l'uomo del monte. Chi si è tramontato, Chi si è tramontata, va? Da pochi di fare al monte, allora entra. Avviro me, per carità, bubù. Avviro. Meno male che ho la buona pozza rossi. Avviro. Grazie Reddo. Ti assento 10 minuti tu. Io già sono qua io. Luca, ci sei. Io sono qua. C'è anche Gio Maria, ci ha assentato. Ti sono piaciuti il mio regalo di Natale. Ma tutte e tre o uno era? No, tre sono. Uno con la perla verde, uno con la perla rossa e uno tutto. E quello là è quello che c'è sotto, appoggiato. Quello è un lingottino d'oro. Ah, bello, bello. Quello però c'è un invece, fino a 50 anni. 50 anni? Sì, me l'ha regalato mia, la buona anima di mio padre, quello lì, anche la cipolla c'ho tu, che ha preso a tua, lì in cucina c'è lui, l'ha preso. Ma tutta d'oro? E allora, c'ho la cipolla tutta d'oro e l'orologio antico, antico a cipolla di Baffo, quello è d'argento. Ho capito. A giocare a vabbè, dai, sono bei regali, dai. Quali là sono ricurti. E poi ce l'ho un altro, l'ho bianco, oro bianco con la perla. Però non mi piace, chi c'è di fidanzamento? Quando mi sono fidato te me l'ha regalato Paoletto. Però non mi piace, rimane a torretta, amico. Una torretta in punta c'è la perla. Ed è oro bianco. L'oro ha valore, ha molto valore. Lo so. L'altra volta avevo un bracciale, mi si era tagliato. Un anello mi si era chicciato. Bello massiccio, mi si era chicciato. Anche quello, catenine, che mi si erano rotti i gancetti, anche una spezzata in due lavorando, che l'avevo sempre appeso al collo con tutti i gingirielli e pinzuroni. Me l'ho rotta quella, una giubba e anche quella roba lì ce l'avevo portata a compro oro e mi ho preso un'altra cosa in oro però. Ho capito, te l'hai venduto. Sicuramente c'era molto peso. Ho dato quello con ricavato, mi ho preso un bracciale dove. Certo. Già vale comunque, non lo vale molto. Solo che tu lo pagani, se no quella cifra lì no, ci guadagnano minimo il doppio. No, dipende, ti devi girare chi si compra ora, che ci va a tenere il prezzo a conto giù, non hai compreso. Devi girare, no, io ero andato agli punti, te lo paga più bene, quello c'è sulla strada principale. Infatti come girare sì, è vero. Guarda, uno va e ti offre tutto, va da quello e ti offre 10 euro in più, per dire. Ha detto Luca Flippa e chi ce l'ha pigliato dai cinesi? Ha detto ripeti vai giù dei cinesi. Ah, oro di cinesi ti ha detto chi è Luca, così è. E la giustizia ripeti vai giù dei cinesi. Oro di Bologna, secondo è tu. Ma la giusti che pizzi in un pizzone, chiedi la verità a lui. E Gianni Maria, ma niente. Mi ha detto che era da mangiarsi i gambaroni, non potessi passare al forno. Cos'è lui che mi stava dicendo cosa mia moglie, dimmi. Ho detto che è andata a mangiarsi un paio di gamberoni e un pezzo di pasta al forno. Chi cazzo? Tu stai a farmi, babbia. E c'avevi un altro messaggio, mi ha mandato Luca, c'avevi. Ma dici domani vieni con un beccio di precisione, non bisemmo, e devi essere sicuro, perché ci sono mancato un beccio. Ehi, che sono mancato, anche a chi rinnai? Ciao, magari, tanto tempo fa già ne avevo un beccio. Ma... ho capito. C'è gente che ne aveva chili, cavolo. Ehi, mio fratello venirà inaugurato da casa sua, l'aveva un bene la via, e l'hanno rubato. C'è un a 26 euro, fa 26.000 euro, certo. Un bel di dinazzo, c'ha un bel di valore, però devi trovare quello che te lo paga buono. Lo so, sono punti precisi. Truffatore brucio, che ti butti, se non abbiamo un pezzo. Che tanto gli altri, che si pensi che fanno, sono già truccati. Basta andare da uno di fiducia, te lo compri quel pezzo, ti vendono i pezzi, quelli per pesare i grammi. E lui sai subito. Infatti io quello che mi avevo venduto, quando mi l'ha pizzato, che c'è di via Grazia Veneta, la gente ma numeri stanno, guarda che lì di come peso reale, c'è tutto, guarda che l'ho già pesato io da altre parti. Cosa si dice? Ma embriagoci, fermo così invece. Dammi tutto, non ti do nulla, me ne ha giubilato e me ne sono andato. Mi voglio avuti, via Grazia Veneta. Ma avevo una femmina in chili. Una ragazza c'era il giorno che sono andato. Cada bici mi ne no, aspetti, mi scusi, forse ho sbagliato. Sì, ciao, arrivederci. Aprimi la porta, in presa, me ne sono andato. Sono fui davvero. E allora che ti buttini? Te lo devi passare tu prima, entri da un'ora a poco. Te lo pesa davanti a te e sei già quanto è all'incirca di dici buru quanto può avere di valore, quanto lo puoi vendere. Vabbè certo, lo so, ma ve ne sono pochi onesti, pochi, guarda, ma molto pochi. Ma tu lo devi pesare da quelli che non comprano, capito? Che sono orappi, però non lo comprano loro, lo vendono solo. Ah, sì. E così ti dici un beso giusto, no? Capito? Ma Luca ti sta scrivendo? Adesso lo sto scancellando da mia nipote un poco di merce, è pieno un gabbo. Sente. Capita, roba di 20 cose ne ha già cancellato. Cioè, vuole il PTT del portatile che è difettoso. Cioè, il gommino l'ha messo male, l'ho dovuto aprire, adesso va bene. Allora l'hanno messo male dalla fabbrica. Sicuramente. Ti avevo mandato anche la foto della radio mia, ieri, vista là. Sì, ma l'avevo già vista anche lì, quando sono venuto a casa tua, ti ricordi? Sono venuto con Luca, mi pare, boh. Ah, avanzo che cancellini che ci avevo mandato a te, pure il baracchino, te. Se non mi si impalla il tuo gusto. Poi ho sentito. Sì. Al PMR l'hai sentito. Sta parlando con me qua. Aspetta, Giovanni sta entrando Graziano. E mi ha detto che si assentava 10 minuti. Beh, non l'ho sentito oggi, ieri già l'ho sentito, oggi no. Cosa Grazia? Che vuole entrare, aspetta. Ho capito chi vuole entrare. Che vuole entrare, non l'ha sentito, va avanti. Ma di bacia. Che cosa hai fatto? Io? Allora, stamattina stavo controllando un telefono di un amico. Praticamente devo cambiare il connettore di ricarica. Stamattina l'ho ordinato. E poi mi stavo controllando, come si chiama, la radio sveglia di mamma, che non mi fa mettere i minuti. L'ora sì, ma i minuti no. Però invece ha giumullato. L'ho aperto un attimino. Sì. Il tiki piccolo, il tastino non è un tastino proprio, è una lamellina sopra, cioè che fa il tiki tic. Non fa contatto bene e non mi fa cambiare i secondi. La cosa della bellina. Ma la deve cancellare delle cose del telefono. Vedi che in alto c'è quella riga. Ma sì, sta finito. Capito, grazie. Quando devi cancellare, invece di cancellare di una volta, capito, di messaggio. Vieni, sei un punto. Dove c'è la fotografia lì, dove ti appare il nome con la tua fatto? Vieni premuto lì, ti diventa blu e poi vai in alto, c'è il cestino, capito? E cancelli direttamente tutto da lì, senza bisogno di stare a... capito mia. E beh, avanti, chi è che voleva entrare? Bella me! Luca, caggiù di giù. Sono qua, grazie. Mi Giulia mi ha mandato una volta, cioè, vedi, una guba con i ditti, ma mi pare un maccio. È un maccio, grasso come un maiale. C'è scritto il cielo non voleva quest'angelo, ha le ali c'ha, e me l'ha inviato, anche io non lo voglio e per questo lo mando a te. Se anche tu non lo vuoi tenere, mandala a qualcun altro, insomma vedi tu, avaro manda a te. Aspetta un attimo, grazie, che arrivo a Tamari. Eia, a parte che vuole entrare. Ehi, ma quando puoi devi inviarmi un messaggio di nuovo? E beh, niente di buono ti ha portato. No, no, niente, io ti ho fatto merenda. Merenda? E cosa ha fatto? Cosa? Che merenda ti ha fatto? No, io ho fatto merenda. Aspetta un attimo. Eia, già aspetto. I coglioni, non quelli di scelpa con gli altri panoni, e dagli stranieri che te li dica, le donne d'Italia non davano figa. E allora vidano, coraggio fratelli, bisogna salvare l'Italia fratelli, salvare. Questa vita, se tutti un portello, pensiamo piuttosto a salvare l'uccello. Non c'è patriottismo, idea da curare, il buco del culo bisogna salvare. Finito l'onore, la pacchia e il sovazzo, l'Italia si resta ma manco bucaccio. Questa bellissima poesia è del signor spagnolo. Sentite lei la poesia. Sì, grazie, però non mandarlo qua, capo, non mandarlo. Me l'hanno mandata adesso, da parte lo sentito. Ma non è mandare qua in frequenza, capito? Non si può, mi lo sai. Già non possiamo parlare, dai, non li manda. Non li mando. Allora manda Luca. Aspetta, vado ad aprire. Gamba, gamba. E beh. Chi è? Luca. Grazie. Era a aprire la porta che c'è. È la mia figlia. Ho capito. L'ho mandata a pigliare l'artigiana dall'erboristeria. Ma per te? No, per me mulini. Ho capito. Dopo la finocchia? Quella per dormire rilassante è quella che ti fa andare anche di corpo, cioè. La vendono, scusami, te la pesa, erbe che fanno loro. Capita, tra una e l'altra di giro, non puoi comprare un cavolo proprio, è poco cara. Non lo sai, così, tutto caro, Tu la metti di erba, Ma non è che piace la marijuana, no? Mia fu. Ma se te la fumo ti sconvolge. Lui. E la bippa me la bonga, e tu faccio la bippa. Suo fratello, grazie, ogni morte di pappa entra. Cosa cazzo, è pura di Giappone. Per carità, non te lo compare. Va via il guappo, cosa si chiama? Siamo a quattro ruti, manne. Come si chiama? Il duo, Quad. Più di un anno lampato in garage. La discammina puttana attestina che era la brana in un garage. Se non la cazzo di Samostri. Se ti la puttana, la portata in magazzino dove lavoravano. E se no gliela rubavano qua. E quanto è quel quad? Se lo sta vendendo non lo può guidare. Grazie, ci sono i gruppi su Facebook, ha voglia a vendere lì, ha voglia. Gliel'ho detto a metterla lì o se no a salire in piazza le segni da quello che c'è all'angolo che vende le moto. Gli chiedi se ti la biglietti la buona esposizione ti fa un prezzo lui, intanto se lo dai e della cosa a te e la metti in esposizione. E ma di te va vengo e fai come ti vuoi. Ma è più grande di te? Sì, 2 anni. Ma qual è lì in zona abita la stazione, vicino a te? In quell'altro quartiere comunale. Dopo c'è il tabacchino, quello di fronte. Ah, ecco perché arriva così forte. E lì, abita lì, mi sembra la terza o la quarta palazzina, boh. Sì, all'ultimo piano. Sono andato dell'ultima volta non vanno più. Tutti i carapini, uni amari, notte e notte. Perché non è l'ascensore? Non ne hanno mai messo in quel palazzo, tutti randaggi su, da cazzo. Cazzo trigo capi, vero che a due chivi l'avevi visto, a fino a ponere l'irina dell'ascensore, io non che era così mi prima. Cazzo, ci ho fatto un casino, avessi ne hai bucato l'irina. Cazzo non hai compreso, la gente di ricare non va a servizio, se vai a castagne ricare ti troncola anche. Perché lì non c'era l'ascensore prima? All'inizio quando io non capitavo c'era, anche il riscaldamento c'era, 4 palazzine faceva. Poi non ne butto più di là, e ne faccia durante la vita. E così arrivato con l'ascensore. Poi però quando non c'era non mi nascondia, intanto non vedo mai, non si prendeva niente, se c'era mangiare qui, la notte oppure qui da due di da un mese, dunque non c'era mai, poi io stavo anche in campagna, da mia suocera, in campagna, e dunque qui veniva a controllare e mi mandava in campagna. No, come fai a farti tutti quei piedi a piedi, poi tu? Per il problema che hai facevo, però poi mi hanno cazzato a chi mi doveva stare bomboloni che ti mando, ha cominciato a succare gli anni, non hai compreso? Beh, ti credo. Solo uno non è buono, che casa non prendo piano, che ce non può niente, né di nati luci nel condominio, ha detto che luci non ha senso, che ha un primo piano e non ne ha tutti nulla. La gente va bene, non è buono, la richiesta si venga a tenere l'ascensore per qualsiasi cosa, è meglio che fuggi. È una del terzo piano, a chi sta la giudizio, senti la mare, è giunta l'ambulanza, dice l'ascensore, no, a piedi, anzi, quando buono di là, allora la signora la busetta in ascensore. La gente va a piedi, a me non me ne ha tutti giusto. Dice, ma lei è obbligata, sì, e figlia la c'è, non funziona, già metto la gianna e non funziona, no? Bisogna pagare, qua lo stesso parte di Marina, non tutti fanno le scale, infatti hanno lasciato un foglio giù, nel portone, da capocondomino, tu sei capocondomino, sei Grazia? Lui da voi ha giubriato, se l'ha rimandato in ora a Mara, cazzo farà un milione ma dammi 2 cinti di capo. E allora l'ha giubato qua a chissà non pugnare di là. Stamattina giorni di là e quindi l'ha giubiliato. E adesso lo sta facendo mia nipote, però per non farlo sempre io, no? Se non dici, sempre duro vai, a chi io ne posso bucare di là. Allora lo fa mia nipote, ma già la controllo io. Ma carità, per cosa sono? 20 euro, 25 euro al mese, così. No, io ho fatto il coso, la tabella, me l'ho fatta fare dall'ente popolare. Io metto 25 euro, quelli del quarto piano. Andando e scendendo, quelli sotto di me mettono 20 euro, quelli ancora più sotto mettono 15 euro, quelli ancora più sotto 10 euro. Anche se ho 4 piani. Cazzo, ma di zero, cagati. Però paghi, sì, questi soldi sono per l'ascensore e per la luce delle scale, no? Capite, per la luce dell'ascensore. E dunque cosa cazzo vuoi? E la spesa, io li vedo, quando vengono e c'hanno belle borse, se lo prendono l'ascensore, come si rubia? e la bomba l'ha bruciata. E allora, cosa di chi? La ditta è pura di chi mi serve l'accessore a vita. Mai dire mai, non si sa mai, infatti è giusto la di chi sono giustizi, l'ambulanza, pur cattiva, e l'accessore non funziona, l'accessore a piedi, si la bandi. Ma davvero, se non funziona anche per la signora l'accessore, si è arrivata a stare a piedi e farà a piedi. Vabbè. Bisogna collaborare comunque, se da pagare si paga, e così vuoi pagarti, è successo lì al monte comunque, no, lì vabbè ascensore non ne hanno, però mi hanno fatto staccare la luce delle scale perché nessuno voleva pagare, e staccando la luce delle scale purtroppo l'antenna è centralizzata, non funzionano i televisori, non si vedono, infatti più di uno si è messo l'antenna per i fatti suoi. Beh, perché poi alla fine si conviene farsi la barra con tutti i due la cosa. L'autoclave non era così, qui c'era anche l'autoclave per tutti che mancava lì. Dice una possibilità così, aggiungere a due dubbi la giubiletta della giubbotte due tappi. E me l'ho fatto io in casa mia. Cioè il serbatoio e il motore, ed è indipendente da tutto. E aveva un bel rivolto, e chi stava a fianco, la zia di mia moglie, mi giocava a minuto e si chiudeva, quando mi ha cazzato proprio, la dice, no, ti poni l'autoclave, quanti mi la giubbotti io, c'ha me l'idraulico, e così vi dai lei, quando ti manca. A chi non mi tieni dopo, non mi gioca gli anni. E visto, ma neanche da grazia non sono così. C'è una signora che non vuole mettere il su, dice l'ascensore non è idrato, ha detto. Ah, così, è tu? Al terzo piano. Sì, si è fatto ricco, grazie a... che non usano l'ascensore, lo prendono. Ma infatti come fa questa signora, grazie a non pagare il condominio che magari c'ha delle spese, c'è la spesa magari 2, 3, 4 buste, è tutto anche la pulizia delle scale, non solo la luce, ma almeno puliteli, sì. Sì, è ben logico, noi non fa mia figlia il portone e le scale quando toccano, a noi una volta alla settimana. Poi lo fa mia zia, la zia di mia moglie che abita qui a fianco, glielo fa mia figlia, però la paga e glielo fa mia figlia. Poi sotto c'è mia nipote che se lo fa lì, e a fianco c'è quella da fianco che se lo fa lì. Poi sotto ancora quella là se lo fa lì e quella da fianco c'è una ragazza che glielo pulisce e paga. E poi giù a sotto se lo fanno loro. Bubu, ma che dai, meno che vi sono attesi, mi randati. Vieni su giù chi non ne ha troncato le vada le buccate un puntatore e sarebbe molto rubricibile, sono senza il puntatore. Adesso l'altro giorno sono venuto a pigliare la misurazione dei contatori, ne hanno buccato rubricibile e l'hanno molto rubato. Quando se ne sono andati è parato, un avvocato non sa per sapere un altro possibile. Al contatore dell'acqua? Al contatore dell'acqua. Vabbè. Sì, ma scusa, se lei va di là atrás, la devi pagare, io l'ho pagata. Io il giorno che ho preso la pensione, la prima cosa che faccio ogni mese, mi pago tutti i gruppi, tutti, dallo primo all'ultimo, non mi dà nulla, pago tutto. Da voi, se mi ne avanza li mangio, se non mi ne avanza mi mangio questo linguaggio, non ho capito. Cosa sono speciali? Vabbè, però magari pretendono di non pagare le cose e farsi altro, capito? Sì, ma io una cosa, se non me la posso permettere, non la faccio, me la faccio quando me lo posso permettere. Però le cose, lei ma la devi pagare, la luce la devi pagare, l'affitto, te lo devi pagare, ti hanno dato una casa in affidamento, noi che ti l'hanno regalata, ti hanno dato per viverci. E te la devi tenere anche conto e pulita perché ci vivi tu. Noi che la casa non era tua, come ci vieni su me, la lasciano andare, non tigni, non fasi nulla. Cazzi in affitto, se ci devi vivere tu dentro, dunque la casa te la devi tenere conto, sia la casa, sia l'eva e sia la luce. Oh no, e tatuare allora uno si andrà in gruta a abitare, se non può pagare nulla, non ti va. Grazie, le cose le vogliamo pagare purtroppo. E se non le paghi, stacchi, tutto, bisogna pagare tutto. Chi può, ovvio, chi se lo può permettere, attenzione, però le cose basi devi pagare, tipo luce, acqua, che si continuano i pagati, se non tagliani. Allora dell'acqua non ne puoi fare a meno, specialmente un barasso, ma sta scherzando. Capita adesso in campagna per dire, noi ce l'abbiamo il posto, sto volendo no, non ce ne fregava niente della condotta idrica che hanno passato, e invece l'abbiamo allacciata lo stesso l'acqua, e ci abbiamo il posto e l'acqua che paghi la bolletta. Usare, ti viene la comunità perché non te la devi usare, non ho capito. Prima devi fare le cose essenziali che ci vogliono per poter vivere, l'acqua, la luce, il gas, non ti devi comprare. E dopo viene il seguito, viene tutto, no? Senti, se non paghi nulla non pagherai mai nulla. È normale, grazie, è normale. Vabbè. Però io dico una persona, poi sicuramente è una persona anziana, che cioè non dice, dice che non usa, l'ascensore, poco vi credo, e tantomeno la luce delle scale. Ma non solo quello, la pulizia, ripeti, non c'è, cioè, sporca, perciò deve pagare, boh, come pagano tutti. Se sono canduecci, li pisci da casa tua, passano in terra, noi li passano in aria, li volano, li bruciare giù, fai che devono bruciare pulito, ed è fuori a giovedì, quando entri brutti con i piedi in fuggi, no, non si va. Secondo me ti non bruciano nulla e non consumano nulla. E più di una volta si raffende la luce. A chiaro buccio, ma ti va, non si vede da rogati vicando quei buggi non bruciare. Ma infatti, è quello, capito? È quello, vabbè, uiaia. Ci tocca sempre bisticciare. Non sta bene. Beh, c'è meglio che uno si metta la mano sulla coscienza e paga. Io non c'ero mai qua perché ero sempre della Vaglieni, te lo sto dicendo, c'ero poco e niente, si buggì. E poi anche quando c'ero che si rubibaro me ne andassi in campagna, non me ne affutti a nulla. E non ne guardavo di queste cose così. A chi si no, sapendo una cosa del genere, mi ha più fatto la casa, è nata la casa che ha giù fatto a mio cugnato, perché è predisposta per due piani. E la volevo fare sopra un'altra casa sopra, per me, invece poi non me ne ha più fatta, dice cosa me ne vuoi, sono in domani che ando a fare, che avevo stato in mezzuzza, mi sento lì a cuffare tutto, infatti lì c'ho la camera da letto, il bagno, c'ho tutto. E sapendo una cosa del genere, adesso che sono in casa fisso, me l'avrei fatta, ma tu vai e immaginatelo, non manco ci pensavo io che erano così stronzi qua. Io vedo magari di essere. Sì, grazie. Faglielo capire, boh. Fa una cosa, tu prendi una mazza da baseball, cucivi da capo, magari riesci anche a farglielo capire. Ma cosa cazzo, gente ignorante, tonta, quando vado alla riunione, uno la diminuisce. E che se devo andare? Andare a dare un culo in via 25 aprile e mandare di notte. La giudizio, beh, fammi una cosa. Non mi dà culo, si lo dai, parte, la parte tua te la buongui, contento di armarco, mi dice tutto quanto da culo. E lei la nostra io, mi chiedi qui a buvi, grazie, ma lei qui in sei io si giocava la macchinetta grazie a Vinci. Ma la prima quando io la giudizio così a me si ne la bugate mi ne la stava pure a casa e va bene, non ti conviene andare via 25 aprile, pensate va roba la macchina, ti immagini, lo so. Ma Gio Maria ha detto 10 minuti non è più entrato. Gio Maria! Ehi, chi c'è oramai è vecchio. E già lo sai l'anzianità è come ti confuseggia. Ha perso un bel di golpi, ma un bel oramai è irrecuperabile, secondo me. Secondo me la scusa, 10 minuti è andata a fare le coccole alla moglie, altro che PMR. Si avanti, dai, da casa sua in poltrona, con la cuffietta, con un pompone, è sempre buffelli, buff, buff. Ehi, ehi, vabbè, se vuoi va, grazie. La picciaia è carrogna. Non sai come te, ma ancora è nuda, hai detto che andrei sicura a bippa. Tutto la sera ci sente gassimi. Ciao Claudio, no, stiamo parlando di un nonnetto. Fa vita, fa vita, tutta la sera ci sente gassi, altro che nonnetto, Ciao Lugarie. Gassimi, Marilia siamo gli ucchetti. Ma mi sa che se ci sei tu, là, 10 minuti, dai, 4 ore, vada a dammi una sciacquata, sennò si fa tardi poi, non mi lavo, è un casino, dai. No, Lu, no, sono andato a salutarvi, che anch'io ero al lavoro, sono stanco molto. Nulla, devo girarmi i piazzelli, recinzione, ma non recinzione in rete, no. Quei pannelli belli, ci metto pannelli di ferro, belli. Se buttaria che arrende e freno mi fa male anche la schiena. Dai, ci sentiamo al limite. Dopo se ci siete adesso vado anch'io, andiamo una sciacquata. Ciao Graziano. Vai, lavati, vai, tu, a futtendini, a rimanere la giura, Graziano. E tutta la gira nei gassi. Io sono il portantino sempre appresso perché lo usiamo per lavoro. E se tutta la gira va i denti. E allora, se non entro, tanti che Luca mi massacra di messaggi, chi dà sono me stessi, e gli dico che mia mamma sta giù finito io entro. Cosa ti hai trasportato quei pannelli grigliati? Vabbè. No, non ce l'abbiamo appresso. Giusto per quando ci abbiamo la tascala in alto per non stare a bozzi, capito? Allora parliamo con quello lì, ma a volte ti sento, a volte no. Se no, no, ma noi non ci sentite neanche perché usiamo quelli a bassa potenza. Siamo dentro il condomino, quindi non ci arriviamo lì. Va bene, grazie. Vai, saluta Giulio, Lugano 23 che dice pirato, non entra mai nessuno a dito. Non mi piace, era stato per curiosità, quel canale del telefonino. Non c'è mai nessuno, l'ho messo un paio di volte. Sono chi dà bisogno, chi ti sei preparato bene. Ha già avuto pure un canale, ha bisogno di dare tutti i Già esisteva Giulio stasera anch'io nel gruppo, anch'io ce l'ho ma ascolto solo, non mi interessa. A voi verrà uno che si è briato, un camionista siciliano, è una porcheria cosa, lui sta a entrare in Chisirugu, ma lascia perdere. Ciao ragazzi, ti saluto dai, al limite ci sentiamo dopo se ci sei. Vado a darmi una sciacquata e poi mi preparo e devo dare anche a mangiare il cane. Ok, a dopo grappa. E va, fino alle 7:30, 8:20 ci sono, va bene, buon lavaggio. Grappa. Ah, io grazie, viene a lavarmi la schiena, aiuto, sei mai venuto, sei a due passi, aiuto. No, mi manda, a Luca ti manda, e ci ha detto, mi ha mandato un messaggio, mi pare. Vediamo, no, mia nipote. Vai alla parte veloce, vai. Vai, che lui non entrava a fare. Vai, grazie a te. Aspetta che mi leggi i messaggi di mia nipote. Vai a lavarti, già sono qua. Ma se non viene a lavarmi la schiena, Marina non me ne vuole lavare. Vieni tu. Piglia un roccio, lava in terra lo spazzolone, accorci il manico che funziona. E sapevi cosa buviscia? Simonella, grazie, Simonella, non fare così. Aspetta, sto rispondendo al messaggio. Ciao, grazie, siamo arrivati in paese. Per caso in cucina ho lasciato i miei auricolari vicino alla TV. Gufo! Io! Stavo aspettando a lavarmi la schiena, che? E allora? Sto occupando di cose, no? Che cosa stai facendo? Adesso niente, poco fa stavo mettendo il pelletto alla zuppa. Adesso mi sto guardando il telefono se c'è cosa da bugarmi. Ma davanti non ne vedo. Non c'è niente. E beh, grazie, stavolta cosa mangi? Ma oggi siccome sono venuto tardi, che sono andato a pagarmi l'assicurazione della macchina con mia figlia e poi alla motorizzazione, e non ho già fatto altro. Perché dall'assicurazione sono uscito da poi di un'ora e mezza. 258 euro per 6 mesi ho pagato. Poi sono sceso la motorizzazione per prenotare il rinnovo della patente di mia figlia e il imbecille mi ha detto di andare alla ASL, non mi ha mentato niente. Invece gli ho detto vai agli punti, paghi lì e te la fanno agli punti. 80 euro. Ali punti. Ma ogni 6 mesi o ogni anno la paghi? Per ogni anno? L'assicurazione della macchina, semestrale ce l'ho, me l'avevo fatta fare semestrale. 258 euro. Ho capito. Vabbè, già va bene, dai. Sinistro non è fatto, no? Ma c'ho tutto però, mi carattrici, tutto quanto c'è. Quella assicurata io con la sai che adesso è Unipol, penso che da quando mi ha pigliato la patente da 18 anni sempre con loro, non è mai cambiato, tanto una vale l'altra. Vabbè, se stai bene lì, tanto se cambi cosa non ha senso cambiare, mica ti fanno 10 euro in meno. Ma infatti, se mi ha avuto sinistri stai bene anche lì dove sei. Io ho fatto una denuncia, per piacere pure gliel'ho fatta, perché non era neanche colpa mia. A un ragazzo che si era sbattuta la macchina mia, quando c'avevo la 127, si è cuto allo sportello e si è burato roba di 20 metri, si è fratturato tutti e due anche, tutti e due bracci e lo butto. Lì alla rotatoia vicino al città mercato, in questa rotatoia della bretella, là, quella di giù. Io stavo salendo all'ospedale dalla buon'anima di mia madre che era ricoverata. Gli do una faccia e ti venga lì che mi sai questa una faccia a rubreggio dello sportello, la moto innanzi allo sportello e ha giusto a Eddie Murelli dall'altra parte. E gliel'ho fatta per piacere l'assicurazione a quell'imbecille, proprio a chi si è tutto fratturato, un preso, un macco. E però denunce non ne ho fatto altro, non ho mai avuto gli incidenti, né in macchina né in camion. Oh, io stato troppo attento, non ho preso sia con un camion sia con la macchina. Eia. Ma tesoro, al portatilino, grazie, ma non è che per caso ti scappa ogni tanto il PTT, vero, anche a te? No, adesso è scaduto il tempo e si spegne, capito? No, io in tutta la vita mia, questa assicurazione l'ho fatta ricca, che denunci non l'ho mai fatto, solo quella. Per piacere pure gliel'ho fatta, dice imbecille. Perché la colpa non era la tua, giusto? No, gliel'ho fatta che c'è la Giumasa ammazza. Sono andato all'ospedale anche a trovarlo. Ma via, l'ha anche ingessato, con i contrappesi. Ah, anche il bacino s'aveva ingessato, cioè ingessato. Le braccia e il collarino va via. E va via le contrappesi a piccare dall'anchi. Ehi, ho capito. E vabbè, anch'io ho trovato una macchina, purtroppo. Questo signore anziano, va, per carità, anche maleducato. La colpa comunque era la sua, guarda, mille per mille. E che avevo bevuto due bicchieri di birra, se mi chiamava la polizia, ma mi faceva il coso, la... come si chiama? L'alcol test, mi fregavo la patente. Beh, te la bottiglia lì, sì. No, io sia col camion, quelle che ho fatto poi le ho fatte per pigliarsene di là, sì, con un camion. A me non male, io gli ho fatto per piacere, per esempio a uno una di ma di tu, si rifacciamo una macchina che fa piacere di là, per assicurazione, un'alfetta nuova nuova. La giocotta un'incurata se ci dannata al muraglione, mentre la macchina l'ha giù disintegrata, a ritrovarci col camion. Eia. Infatti, non conviene manco dirlo le cose, sta attento. Ma è roba di 30 anni fa, è musso, è tramusso. Questo era Oscar si chiamava. Vendeva le banane. Io andavo col camion a prenderle a Cagliari, alla nave. Caricavo il carico dal container. E poi le saliva a Predanetta, le banane, poi lui le distribuiva col furgone, capito? Commerciante di banane. Di banane mangiavo all'epoca, Luca, ho già le banane che vado in campagna. Lo so, grazie. Non è che mi stava parlando Marina, ecco perché non ti ho risposto. E quel tipo lì è morto, e mi ha detto di rubarsi a cuscì e gliel'avevo fatto. Perché lui mi faceva fare i viaggi, capito? E mi pagava puntuale il burro. Anzi, mi dava di a burro in più di nambe di burro. La via di là, romano, via. Bubu. Però meglio evitare certi argomenti, grazie, non si sa mai. Accio al telefono. Un centralino, va un telefono a destra e un telefono a sinistra. Ma chi, tua moglie? Aveva squillato il video di visto di casa ed è mia figliuta. E l'altro fa vedere con la zurita, con il cellulare. Ma figli hai, grazie, anche no? Ega! Tu figli hai, ho solo figlio, solo donna. Oh, io ho il vivaio delle donne, anche il cane è la donna. Adesso non c'è più. Ma che ne hai figli tre? Tre femmine. Una convive e abita in campagna. Lì, non mi ricordo che zona è, verso i punti. L'altra conviveva a Porto Torres, in casa e tutto l'appartamento nuovo e si era mandato a farsi benedì e se ne tornò da casa. E l'altra è fidanzata col pallone, chissà non ha. Già andava. Tre femmine ciò, no, maschio no, niente, il primo quello che era, il secondo maschio invece femmina. L'uterso l'abbiamo provato, femmina, bossa, raduto, ci arrivederci, chiuso. A che so così sicuro ci ho provato vicino a donna femmina. Ah, così è. Vabbè, dai, vabbè, una coppia, maschio e femmine, poi, dai. Allora, sono pure un trucco. Chi oggi come te oggi, bisogna pensare per un bebè a far figli. Non viene a travaglio, non viene nuda. E come si va a campare? Ma una ce l'hai in casa o due ne hai in casa? Due, quella che gioca a pallone e la più grande, cioè, quella lì c'era 10 anni con il ragazzo, stava convivendo e abitava a Portotone, però non ci andava più d'accordo e ce l'ha mandata a quel paese e se ne è tornata a casa, ecco. No, c'ha la campagna il ragazzo, vive in campagna. C'ha la casa in campagna e vive lì, è bella pure. Ma ancora non sei nonno allora? No, l'ha diritto, non ti ne va, pensate che i nostri diventi disestimati, non ne va figli, non mi stare sta brutti. Oh, i figli va, voi fatti, quando sei tranquillo, che c'è un posto di lavoro fisso e tutto quanto, non all'avventura come ti ho fatto io a 23 anni e tutte e tre una presso all'altro. Io a 23 anni mi, infatti ce li ho una distante dall'altra, un anno e un anno, tutte e tre insieme. Sì, ma là ci voleva il maschietto, eh. Ehi, io andavo così, più maschio di chi si faccio. La minorita, cioè la minorita, la seconda gli era preso maschio. Quella me la portava anche a aiutarmi a fare il manovale. E iniziava un bimbi a fare impasto, a caracaldarelli, cantoni. Quella me la portavo sempre, la seconda. Addirittura, cazzo. E chi sa che gioca a pallone. Quella lì, chi sa preso maschio. Chi di maribù. Chi sa di ballabù. Ciao, buona notte, a domani, Ciao Gianmarì, a Romanco, già l'hai fatti 5-10 minuti, bubu. Ciao, per progetto, mi sei tornato da là, era acceso, era in cucina, ma c'era gente per cui non potevo, tutto lì. Va bene, sei perdonato, dai, domani ti tiriamo la corda, io e Luca, ciao, a domani, vai Lu. Ciao Giovanni, dai, buonanotte, allora si sta andando, a domani. Pronto, va, chiudo. Così è, beh, avassarlo, l'otto va così, che mi devo fare l'insulina. E tu, cosa buona pranzo, cena stanotte? Cosa c'è male? Sto cucinando il wurstel in forno con le patate, io ho il minestrone da ieri. Buono, no, io perché da tardi, ci stavo dicendo, dalla motorizzazione, era già la 1:30. Ne ho preso due polletti di quelli che vendono in presa quel supermercato di fronte alla Renu. Due polletti, un poco di patate, un po' di polpette di riso, mi barghirano, sì. E abbiamo mangiato così a pranzo, formaggio, salsiccia, queste cose così. Ma neanche è rimasto, dunque ci mangiamo quelle bu, mica cellulare. Va bene, buona cena, buon tutto. Ciao Luca, ciao Marina, a domani se coincide. Bye bye. Ciao, grazie, buona cena e buonanotte. Saluta Paoletta, grazie, ciao, anche a te buonanotte, ciao ciao. Saluta a tutti. Ehi, ha ricambiato al 100, ciao a tutte e due, ciao ciao.